Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ripeto, sarò noioso, ma è essenziale per tutti, soprattutto per voi radioascoltatori che con noi dialogate frequentemente e in maniera, mi pare, anche piacevole, alcune informazioni di servizio. La prima, il nostro sito radio24.it. se andate sui visini, i faccini o le facciacce, a seconda di come le reputiate, di autori e conduttori della radio, troverete le singole trasmissioni e la possibilità di scaricarle quasi in tempo reale. Quindi non fate in tempo a sentire la mia alle 6.45, ve la scaricate quando volete. Questa e altra, andate per tipologia, la ricerca è facile. Poi con me potete anche interloquire, perché c'è il mio blog Guardie o Ladri, e a me fa piacere se lo visitate, e lo fate, devo dire, in migliaia, e se soprattutto ci scrivete per i vostri commenti. Ultima informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. ebbene, questa mail è stata usata anche dalla nostra radioascoltatrice in provincia di Lodi, Nadia Galinetta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, la signora Galinetta ha avuto un problema con Shadow Duck. Voi lo sapete, seguite anche la TV, ci sono delle bellissime pubblicità con una splendida ex Miss Italia che pubblicizza questi divani. C'ha anche il pancione, insomma, quindi un aspetto anche familiare, insomma, sono bravi, quindi Shadow Duck a rendere il loro ambiente familiare. Ha avuto un problema con Shadow Duck e poi però, navigando su internet, la signora Galinetta adesso ci racconterà quello che ha visto, ha scoperto che non era sola. Ed allora cominciamo da questo racconto per capirne di più, avendo come nostro interlocutore Fabio Corsini, che è il direttore generale Italia di Shadow Duck. Buongiorno Corsini. Buongiorno a tutti. Allora, dottoressa Galinetta, inizi pure il racconto della sua storia con questa marca famosissima di divani e oggetti di arredamento. Dunque, in data 30 agosto sono andata presso un punto vendita vicino dove abito ad acquistare un divano e un tappeto. Ho chiesto che il divano fosse bianco con una seconda copertura celeste, perché in quel periodo c'era una promozione e davano appunto in omaggio questa seconda copertura. Assieme al divano ho acquistato un tappeto che non è mai arrivato, e il divano è arrivato beige. Chiaramente durante tutto questo lasso di tempo ho contattato i punti vendita per avere informazioni in merito. Il 16 di febbraio ho ricevuto un divano beige. Il tappeto è sparito. È sparito. Allora, una cosa del genere uno può pensare, al di là del fatto che da agosto ad oggi, insomma, un po' di tempo è passato, quindi sicuramente la pazienza ha un limite e ogni limite ha la sua pazienza, come diceva Totò. Però probabilmente lei si sarà informata. Come è arrivata ad internet per capire che non era poi la sola a trovarsi in questa condizione? No, sono arrivata dopo aver appunto ricevuto varie telefonate intercorse durante il periodo agosto-febbraio con il punto vendita, dove a mio avviso non c'è stato interesse da parte delle venditrici. Per quanto riguarda poi dopo sono andata su internet perché, esasperata dalle telefonate, mail, richieste di assistenza dal punto vendita, ho voluto un attimino così indagare. Eh beh, certamente. Che non ero sola. Alla fine, insomma, un cliente giustamente perde la pazienza e comincia ad indagare. Quello che dà fastidio, lo ripeto sempre, sia nei confronti del pubblico che del privato, è il fatto di non ricevere risposte, di essere palleggiati, call center, negozi, punti vendita, punti blu, punti gialli. Insomma, alla fine uno non sa veramente come raccapezzarsi, e gli sfoghi su Radio 24 o altre trasmissioni radiofonico-televisive purtroppo sono nient'altro che la calamita di questo malessere. Allora, intanto io ringrazio Corsini perché la faccia ce la mette e ci spiega il perché questo è successo e se è vero che poi non è un caso così isolato. Prego Corsini. Allora, per il momento ci metto solo la voce, la faccia non la potete vedere. Ha ragione, però magari se andiamo sul sito di Shadow Duck la troviamo anche. Non la trovo. Trova delle bellissime ragazze, non trova me. E beh, questo francamente è bello. Volevo prima di tutto scusarmi con la signora, che ha sicuramente avuto un disagio del quale non si può assolutamente negare. Volevo però fare una premessa di questo tipo: è vero che su internet ci sono alcuni soggetti che sono rimasti scontenti della nostra azienda, mi permetto però di sottolineare che noi facciamo 2000 consegne alla settimana e un numero così esiguo di clienti insoddisfatti per noi sono motivo di soddisfazione. È chiaro che il nostro è un prodotto artigianale, noi anche noi ci avvaliamo di fornitori a nostra volta, per cui disguidi ne possono succedere. Quello che mi dispiace nel caso della signora è che a questo disguido non si è, secondo me, come giustamente la signora sottolinea, risposta in maniera adeguata. Allora, io la interrompo soltanto un attimo per puntualizzare una cosa. Io non ho visitato il forum di discussione, però non è che le lamentele sfociano tutte in una mail, quindi magari ci sarà anche un X, un'altra percentuale di persone non soddisfatte che non ha partecipato ad alcun forum, quindi questo lo dico soltanto per riequilibrare quello che lei diceva, ma soprattutto quello che è, come dire, spiacevole è il fatto che non si trova un interlocutore. E l'ultima domanda che le pongo poi è questa qui, ma insomma, quando gli arriverà la signora il giusto divano con il giusto tappeto? Certo, per quello che riguarda la qualità di Chateaudard le do un dato assolutamente preciso. Noi siamo l'unica azienda in Italia che si avvale di una struttura esterna che si chiama Unites S.p.A. È una struttura che è delocalizzata in tutta Italia e permette a qualsiasi cliente insoddisfatto di intervenire in tempi immediati e sul posto, onde evitare disagi di tempi e di attese. Questa struttura in questo caso non è stata, per non so quale motivo, è stata allertata. Comunque, per arrivare al problema poi specifico, certo, della signora, il tappeto è, succede questo: il tappeto, noi abbiamo questo fornitore che è un indiano che produce in India tappeti annodati a mano. Il fornitore ci ha sull'ordine, ci fornisce il tappeto viene sdoganato in Italia, viene data alla SDA, che è una società di distribuzione riconosciuta da tutti, la quale consegna al punto vendita che poi porterà alla signora della situazione. Il tappeto è stato perso dalla SDA, o meglio, il fornitore nostro ha una bolla di consegna di SDA, SDA non ha consegnato al nostro rivenditore di Lodi in questo caso. Chateaudard nel frattempo, il 16 di novembre, ha consegnato il divano della signora. Con un colore sbagliato. Con un bagno di colore del tessuto scelto dalla signora, visibilmente, a detta della nostra responsabile del negozio, visibilmente differente. Quindi sbagliato. Allora, sì, in questo caso succede questo, che tutti i tessuti, questa è una tolleranza, è una normativa europea, non ce la siamo inventate noi, tutti i tessuti hanno una tolleranza sul bagno di colore. Quello della signora, a detta dei nostri dipendenti, era sicuramente fuori questa tolleranza. In questo caso noi risolviamo col nostro call center, con la nostra società parallela che ci fa questi interventi, in un intervento molto semplice. Alla signora viene fatta una nuova fodera e la fodera sbagliata viene omaggiata alla signora, per cui la signora si sarebbe trovata ad avere tre fodere e non una barra due. Ho capito, quindi allora ricapitolando, il tappeto intanto ritornerà, arriverà quello giusto visto che si è perso, insomma arriverà. No, in questo momento no. Viene difficile, ma le spiego il perché. Perché a me arriva questa mail, questo fax della signora datato 17-2 in azienda, al quale noi giriamo tutto al nostro call center. La signora è stata contattata dal call center, allora ritorno indietro un passo. Il problema del tappeto era risolvibile, come è stato comunicato alla signora, in un altro modo. Noi avevamo un negozio, un tappeto esattamente identico a quello della signora. È stato detto alla signora che siccome il tappeto era di esposizione, poteva venire a visionarlo e se il prodotto lei ritenesse che fosse conforme e quindi non rovinato, non difettato e tutto, poteva ottenerlo con uno sconto del 25%. Ecco, diversamente dovevamo aspettare il nuovo. Corsini, mi scusi, alla sintesi di tutto questo qui, no? Ovviamente io non è che metto sotto accusa nessuno perché non è questo il ruolo della trasmissione, ma la sintesi, insomma, avete fatto un bel po' di pasticcioni, eh? Ma ci mancherebbe altro, sono state, quando poi di mezzo ci sono più persone è chiaro che magari il problema si amplifica. Quindi i pasticci ci sono stati, insomma. Allora io dico, intanto ringrazio ancora Corsini perché comunque, ripeto, ci ha messo la voce, come dice giustamente lui, e fa onore all'impresa. Ma cara signora Galinetta, a lei rimarrà cliente Chateaudard oppure, insomma, come dire, la prende sul buono questo aspetto dell'onestà di Corsini oppure, insomma, è segnata da questa vicenda? No, sono molto segnata da questa vicenda perché comunque sono rimasta sola, cioè nel senso sola inteso che nessuno mi hanno rimbalzato da una parte all'altra e chiedo semplicemente il ritiro del divano con l'annullamento totale dell'ordine. Va bene, allora Corsini, questo lo farete un sì o un no? Ah, non ci sono assolutamente problemi, lo faremo. Ci dispiace, ma lo faremo sicuramente. Va bene, allora grazie agli interventi dei due nostri ospiti, dico grazie in regia a Filippo Aureggi, in studio ad Elisabetta Fusconi e Roberto Gallullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.